ты камень на графите. Sulla testa o qualcuno ti calpesta. Quel che so, già lo so. Quel che è scuro, sembra più duro. Ma sono sicuro. La strada nuova rompe le uova a quella gente che è sofferente, ma non fisicamente, ma di pigrizia della mente. Si riparte senza le carte, lì dove andremo è un mondo a parte. Nel programmino di Gigi D'Agostino, ma chiudi gli occhi e attento al gradino. Continua il grande viaggio, il programmino di Gigi D'Agostino. Grazie per avermi mandato così tanti messaggi, così tante foto anche del vostro piedino, del vostro triangolino, rettangolino. Adesso cominciamo a suonare, poi dopo leggerò alcuni messaggi perché sono veramente tanti questa settimana. Vai con la musica! Daddy, I can't sleep tonight. Why don't you sing a lullaby for me now? storia di una ninna nanna un po' strana, ma io questo motivetto l'ho già sentito, mi sembra di conoscerlo, ero ragazzino. E se non sbaglio abbiamo anche qualcosa a proposito. Mi fai sentire? Ah, ecco, vedi? Mi ricordo. Ero piccolo, E ballavo già, Triangolini, rettangolini, già allora. Buddy, your boy, make a big nice thing in the street. Gonna be a big man someday. You got matter on your face, the big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. Singing we will rock you. Buddy, you're a young man, harmless on the street. Gonna take on the world. You got blood on your face, a big disgrace. Waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, bleeding with your eyes. Gonna make some peace someday. You got mad on your face, you big disgrace. Grande artista, aveva scritto a proposito della pubblicità: le anatre depongono le loro uova in silenzio, le galline invece schiamazzano come impazzite. Qual è la conseguenza? Tutto il mondo mangia uova di gallina. Pubblicità. grandioso. Ci hanno scritto da tutta Europa, dalla Russia, dall'Austria, dalla Germania e dalla Spagna, per ora. Allora, ci scrive, intanto vabbè, dall'Italia, Carlo: sono un camionista ma non un egoista, mi piace ballare su questa strada, Gigi, fammi scatenare. Perché mi incarto sempre quando leggo i messaggi? Poi ci scrive Fabio: io il tempo durante quel pezzo di musica elettronica lo tengo, ma quando c'è da trombare pedalo via come Girardengo. Grande Fabio. E il nostro amico Mario del forum, più conosciuto come Jar: la giornata è solare e il programmino fa tremare tutto l'apparato auricolare. Voglio saltare. Popcorn, fammi ascoltare. Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Gigi, butta quella canzone lì che parla nenca, è la musica che parla. L'immaginazione è una qualità che è stata concessa all'uomo per compensarlo di ciò che egli non è, mentre il senso dell'umorismo gli è stato dato per consolarlo di quello che egli è. Questo ha scritto Oscar Wilde. No, rido perché mi incespico sempre quando leggo. Sono d'accordo con Oscar Wilde. Il programmino cerca di liberare l'immaginazione di ognuno di noi. Ci prova. L'immaginazione che cerchiamo di far esplodere in ognuno di noi. Anche nelle nostre serate, volevo parlarvi anche dei nostri appuntamenti. Noi portiamo il programmino in giro per il mondo. Questo sabato siamo a Lugano, al Titanic, in Svizzera. E quindi sabato 4 ottobre, Titanic, Lugano. sabato 11 ottobre al Samuel in provincia di Bergamo, Trescore Balneario. Non c'è il mare però, eh. E invece poi sabato 18 ottobre al 24.000 baci a Latina, grande appuntamento e un grande ritrovo. E c'è ancora un appuntamento, l'appuntamento elettronico di ogni anno, Halloween elettronico. Il nostro grande viaggio si ferma ogni anno in un posto particolare. Quest'anno si ferma a Cigliano, al 2 di Cigliano. È vicino, è tra Torino e Milano, è sull'autostrada Torino-Milano, uscita Cigliano. Halloween elettronico, vi daremo altre notizie più avanti. Continuiamo questo grande viaggio per chi ha coraggio. Viaggio infinito. Sono quei momenti forse momenti che vorresti fossero eterni, quando ti senti perfettamente a posto con tutto ciò che ti circonda. Quando ti senti perfettamente a posto con il mondo che ti circonda. Sono i suoni che ci accompagnano in questo viaggio, sono i suoni che ci fanno atterrare in vari posti, in varie situazioni, in varie condizioni di tempo. Senza tempo, mani a tempo. È il tempo che scorre dentro, dentro i suoni, dentro di noi. Già da bambino ascoltavo D'Agostino. Ora che sono architetto lo ascolto anche a letto. Vai Gigi alla grande. Grazie. Digital Dream. La centralinista, eh? Oh, allora c'ho un sacco di messaggi da leggere. Giurda da Cuneo: la tua musica D'Agostino è il mio destino, musica che parla, che suona, che balla, che sballa, è la musica che mi fa stare a galla. Ciao Midigu. Telefonica. tempo di musica, non tromba, e dico non tromba per tutta la vita. Vabbè, me la rischio. Questa musica elettronica, questa è musica stereofonica, questa musica elettronica, questa è musica stereofonica. Scrive il signor Dwarf Brown a proposito della pubblicità. Quell'attività che si ritiene immune dalla pubblicità. Allora, quell'attività che si ritiene immune dalla pubblicità, prima o poi si ritrova immune da ogni attività. Taratatata. Tanti cambiamenti. Tutto ti appare chiaro. E tu ne eri ignaro. In un istante. È tutto meno pesante. Tutto può cambiare. Basta lasciarsi andare. Musica. Un pensiero molto interessante a proposito della radio, un pensiero sulla radio, l'ha scritto una certa Peggy Noah questa qui comunque. Lei scrive: la TV ci regala delle immagini, ma la radio dà vita ad un milione di immagini in milioni di cervelli. Grandioso, spettacolare, questo pensiero rispecchia esattamente ciò che penso da tempo. E sì, perché la radio ti lascia libero di vedere, ti lascia camminare dove vuoi tu, come fa questo brano che mi piega letteralmente in due. The city stretches like an elastic band. It grows and contracts here in my hand. Stretch the city to the sky. Put it right up there, real high. Just fine. Non si riesce a tagliare, non si riesce a interrompere questo brano, anche se la radio e la televisione costringe un po' a velocizzare oramai le cose, tutto più veloce. Tanti anni fa i brani nelle radio si ascoltavano quasi per intero, oggi non più, e non lo so perché, forse per non dar tempo alla gente di riflettere su quello che è effettivamente il brano o l'immagine che sta ascoltando o vedendo, insomma. Ma tutto sommato il cielo è sempre più blu. messaggi, messaggi, ancora messaggi. Oggi si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Tu per me non hai prezzo e vali più di ogni cosa, Gigi, sei un mito, finalmente riesco a dirtelo. Luci, grazie. Poi c'è Leo di 18 anni da Martina Franca, provincia di Taranto. L'autunno è un momentaccio, stare a scuola è un lavoraccio. Torno a casa scoglionato e un rimedio ho trovato. La tua musica mi ha rallegrato e la tristezza eliminato. Grazie Gigi, grazie a te. Un messaggio dalla Russia, Tania dalla Russia. Ciao caro Gigi, sono il tuo grande fan da Russia. Puoi mettere Amour Toujours, per favore? Grazie mille, sei sempre grande. Russia ti ama. Ciao Tania, per te l'amour, toujours. Toujours. Testa o qualcuno ti calpesta. Good. Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Pubblicità. Taradatata. Sono arrivate già molte foto via mail con il vostro piedino che batte il tempo e crea il triangolo rettangolo. Qualcuno non ha capito bene qual è l'altezza e quindi si è slogato una caviglia perché ha girato forse un po' troppo il piedino. E al limite adesso metterò la foto del piedino sul mio sito, così vi farò vedere com'è, perché qualcuno si è slogato una caviglia e non è bello. A proposito di triangolini, Bruno da Catania, ciao Gigione, Bruno è il mio nome, vengo da lontano, sono siciliano, triangoli, rettangoli ne ho fatti tanti, alcuni anche volanti, forza Catania, sempre, l'ha scritto lui, No, dicevo che alcuni hanno sbagliato perché praticamente hanno alzato troppo il piede e qualcuno si è fatto anche male, ma basta alzarlo poco perché quando noi battiamo il tempo, naturalmente, alziamo lievemente il piedino. Ognuno è unico nel suo modo di immaginare. Ognuno è unico nel suo modo di essere pazzo. l'immaginazione, l'unicità dell'immaginazione. Marcel Proust scrive: spesso è la mancanza di immaginazione che impedisce a un uomo di soffrire troppo. Eh sì, perché l'immaginazione ci aiuta anche a soffrire. È tipo nei tradimenti, quando l'uomo, anche la donna, insomma, comunque quando l'uomo si fa quei suoi viaggi intensi su quello che può aver fatto la donna, magari con qualcuno, e chissà come. Insomma, quell'immaginazione lì, quel film che si fa, lo fa soffrire ancora di più. Viaggio insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverà il giorno in cui Ci scrive Tony: la si ascolta ed il mio corpo scotta e la mia mente fa una giravolta. A tutti gli amici del forum Fly volevo dedicare, per non smettere di sognare e non smettere di volare. Ciao Tony. Parlavamo dell'immaginazione che fa soffrire, sì, perché l'immaginazione da la parola immaginazione ti porta a pensare a qualcosa di bellissimo, ma insomma aiuta anche a soffrire nel caso del tradimento, come dicevo prima, che magari mi sono anche spiegato un po' male, ma intendevo dire che quando si dubita della persona amata, allora lì la mente inizia a lavorare di immaginazione, no? Immagina cose assolutamente assurde, perché a volte si sbaglia anche, non è sempre così, è il semplice dubbio che genera quel film tremendo che ti fa logorare dentro, ti fa stare male, ti fa soffrire. Ma non solo nel caso del tradimento, nell'amicizia, nel lavoro, ovunque, è l'immaginazione che ti può lacerare dentro. Quindi per cui anche lì si sogna, ma nel senso, insomma, più negativo della parola. Ho raccolto altri pensieri a riguardo dell'immaginazione, del sogno. Un certo Ennio Flaiano ha scritto: sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole. Beh, mi sembra preciso. E poi sempre sul sogno, è molto bello, ecco, tipo Marcel Proust ha scritto: se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo. this motherfucker. Crank this motherfucker up. Crank this motherfucker. Crank this motherfucker up. Crank this motherfucker. Crank this motherfucker up. Crank this motherfucker. Crank this motherfucker up. Crank this motherfucker. Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now, crank this motherfucker up. La pubblicità è vecchia come il mondo. Infatti, come tutti sanno, cominciò il serpente a decantare a Eva le virtù della sua frutta. Taratatata. We'll be right back. mi ha scritto un messaggio molto riflessivo. Filomena, non sono io che ti penso, sei tu che mi vieni in mente. Un altro grande messaggio me lo scrive Giuseppe. Sofferenza e amore avvolgono il mio cuore, anche se il perché non l'ho capito, è la musica che mi ha rapito. Il perché sei tu che ti lasci andare, ti lasci avvolgere, sei tu che permetti tutto ciò. E la musica può fare, ma senza il tuo volere non può assolutamente disfare la noia, disfare tutto ciò che ci circonda. A volte ci annoia un po', non ci piace più, ci sono dei colori che sono improvvisamente più cupi. La musica può cambiare, la musica può farti vedere altri colori. L'immaginazione governa il mondo, disse Napoleone Bonaparte. affatto chiaro è che la musica non ha valore fine a se stessa. Ciò che la caratterizza è il vero suono. E l'interprete non può fare di più che usare le proprie capacità mentali e spirituali per rivolgersi agli spettatori. Questa cosa qua è forte, eh? L'ha scritta un certo Sir Thomas Beckham, che non ha niente a che fare col giocatore di calcio spettacolare del Real Madrid. A proposito di calcio, ho visto Report su Rai 2 questa settimana che ha parlato delle varie schifezze delle società calcistiche. Mi dispiace pensare ciò perché a me piace lo sport, l'atletica, però insomma succedono cose poco belle, molto basse sulla testa. programmino di Gigi D'Agostino. Attenti al gradino. Chiudete gli occhi, ma attenti al gradino. Dicevamo prima delle storie stranissime sul calcio, no? Perché ho sentito purtroppo cose molto brutte a proposito delle varie società calcistiche. Addirittura sembra che esista una legge che autorizzi il falso in bilancio, ma solo alle società di calcio. Terrificante. Di calcio. Vergognoso. Fuori tempo. Controtempo. Robe brutte. Cari amici del triangolo rettangolo, viaggiatori, scusate se vi trito il marrone, ma è il momento della citazione. Se la pubblicità non funziona, non resta che cambiare la merce. Taradatata. Ci sono un sacco di messaggi che parlano del silenzio. Grazie ragazzi. Allora, Elisa da Roma, nella certezza di un'incertezza, mentre inseguo il mio cammino, ascolto il programmino che ossessiona la mia mente, con Silence solamente. Poi ci scrive ancora Edo, ogni sabato combinazioni elettroniche portano in alto il tuo nome, il tuo stile. Contro chi vuole standardizzare, Silence mi fa sognare. Grazie per i colori. Grazie a te, Edo. Poi ancora da Reggio Emilia, Davide. Gigi, le tue melodie mi accendono e col tempo mi sorprendono. I tuoi ritmi mi colorano ed incanto mi scatenano. Il silenzio sta per arrivare e io sto per decollare. Davide di Reggio Emilia, grazie anche a te, Davide. E poi ancora Manu e Pami. Tacere opportunum est, direbbe Cicerone ascoltando Silence con molta attenzione. Ce ne sono ancora tanti, non riesco a leggerli tutti. C'è anche un bel pensiero di Baltasar Gracian Morales. C'è sempre tempo per lanciare una parola, ma non sempre per riprenderla. Destiny above, walking hand in hand in there. C'è un pensiero molto divertente ma molto vero a proposito del silenzio. Basta con le parole, mi si attaccano alla testa e poi mi fanno male. È molto vero. Poi c'è un altro invece molto più riflessivo che... Allora, eccolo qua. Le parole non servono dove le bastonate non bastano. E poi c'è ancora un altro pensiero molto interessante di Ludwig Joseph Wittgenstein: ciò di cui non possiamo parlare dovremmo lasciarlo da parte in silenzio. The bitterness grandiosi. Tra l'altro staranno in Italia a ottobre, credo, quindi in questo mese per il loro tour. So che c'è l'album nuovo, ma io oggi ho voluto suonare questa perché sono innamorato di questo brano. E andiamoli a vedere perché meritano. Vi ricordo il numero della messaggeria per scrivere tutto quello che immaginate, ma assolutamente in rima. 333-6467-662 oppure la posta elettronica gigi@supergigi.com, dove potete scrivere anche lì tutto quello che immaginate, ma anche mandare l'immagine del vostro piedino che batte il tempino facendo il triangolino, per poter far parte poi più avanti del club del triangolo rettangolo. Più avanti vi diremo poi tutte le cose che ci saranno da fare, tutto quello che vi dovrete procurare più che altro. Il club sta nascendo e è in fase di costruzione, ancora non c'è tutto per poterlo aprire, ma vi daremo informati comunque. Allora, poi ancora tutte le date del tour di ottobre, quindi questo sabato, stasera 4 ottobre, Lugano in Svizzera al Titanic. Sabato 11 ottobre al Samuel, a Trescorre Balneario in provincia di Bergamo. Suoniamo lì, diciamo. E ancora gli appuntamenti del grande viaggio. Sabato 18 ottobre al 24.000 baci di Latina. E Halloween elettronico, quindi il 31 ottobre, credo sia venerdì, sì, alla discoteca 2 di Cigliano, sull'autostrada Torino-Milano. 2, Cigliano, andiamoci per mano. Verso il cielo, quasi come per cambiare la forma alle nuvole. È la forma che vogliamo, che immaginiamo, che sogniamo. Verso il cielo, sulla testa, musica. Qui il piedino rallenta poco poco, un bel pochino, è il tempo lento, violento, scusate se ritrito il marrone, ma ho appena finito di far colazione e devo dire l'acidazione. La pubblicità può essere definita la disciplina volta a catturare l'intelligenza umana abbastanza a lungo da farci dei soldi. Taradatata. Anonimo. Tanto per cambiare. La vita mi sorride quando c'è Gigi che incide. Il lavoro più non c'è se mi metti su caffè. Agitazione molecolare, spostamento totale. Chi non si muove si fa male. Si muove, si fa male. Ci stiamo per fermare di nuovo, anche la tappa di oggi sta per terminare, poi continuerà domani in replica, la prossima settimana e poi ancora. Ci sono ancora due messaggi. Davide mi scrive: ciao Gigino, maestro divino, è possibile ascoltare Sottosopra? Come no? Ancora Gianluca, detto il paro. Ah, Gigi sei il migliore, mi metti la canzone che fa saltare. Come no? Harry riscaldamento per questa sera. Iniziate a prepararvi perché è un pre, diciamo, e per non arrivare questa sera poi in discoteca tutti legati. Allora iniziamo a snodarci già dal pomeriggio. Saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, battere le mani, domani, mani, mani, su battere le mani e poi. Saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, battere le mani, domani, mani, mani, su battere le mani e poi. Faticoso, lo so, ci riproviamo, mettetevi comodi, mani sui fianchi, portatevi avanti, vi faranno santi. Pronti? Mano sul fianco. Viaggiatori del programmino, amici del triangolo rettangolo. Saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, battere le mani, domani, mani, mani, su battere le mani e poi. Saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, saltare, battere le mani, domani, mani, mani. Battere le mani e poi urlare. Ce l'abbiamo fatta, grazie ragazzi, grazie per aver sognato, per aver viaggiato. Ci sentiamo domani in replica e poi la prossima settimana con il grande viaggio del programmino qui su Ring Radio Italia Network. Adesso le cose sono due: o rimango qui io o va avanti Robby 82. Vado via, rimane lui, ciao.